per il cielo ci so restare. Eternità che racconti sei il nostro dire. Portale un cesto di nuvole da sfogliare. Serenità sarà il treno su cui viaggiare. I love you per te. I love you tuo ritrovato anche il mio bagaglio. Dalla valigia di luna ne ho preso il vino, quello da bere con te quando fuori piove. A volte il cuore altalena e contraddice. Bastardo, balla per te e porta via la voce. Oh, I love you per te. I love you per te. Guarda l'Italia che bella, sembra inventata. Sorride a te dall'estate, a me con le dita. Guarda l'Italia che bella, sembra inventata. Somiglia a te mentre dormi e a me che ti guardi.